Ben trovati e ben trovate, le 14 in punto, 87.900 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini politici, senza padroni economici. E questa è Visionari, il consueto appuntamento con il cinema, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Comunque tutte le informazioni relative alla trasmissione potete trovarle sul sito www.ondarossa.info, con il link per riascoltare la puntata precedente, gli ospiti di questa settimana, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, poi link per le interviste, conferenze stampa e le recensioni, e poi in altre segnalazioni relative ai film sul piccolo schermo per quanto riguarda la programmazione televisiva. Cominciamo subito la nostra folta trasmissione odierna, e per la cronaca è anche il mio compleanno, quindi io lo passo con piacere anche da questi microfoni e con questa trasmissione. Andiamo avanti. Ritrovato Attilio Azzola, regista di Diari, ci sei? Ci sono, e come l'anno scorso ti correggo, Attilio Azzola. Azzola, ecco, vedi, non imparo, no, passa il tempo ma è la stessa cosa. Esatto. Allora, un anno fa ci eravamo sentiti perché il tuo film era in un festival internazionale. Assolutamente, eravamo al Festival di Cannes, una sezione minore che era i Cran Junior. E niente, ci ha portato fortuna sta chiacchierata con te, devo dire. Sì. Infatti io poi solitamente mi piace sempre dire ci sentiamo magari per l'uscita in sala, e così è, perché il film uscirà domani. Assolutamente, ci eravamo sentiti 2 giorni prima della nostra proiezione a Cannes e abbiamo vinto, e ora ci sentiamo appena prima della proiezione in sala a Roma, che per noi, che siamo una piccola produzione indipendente, è veramente un bel risultato. Ecco, raccontaci appunto questa realtà indipendente che è riuscita a superare i problemi distributivi e insomma a presentarsi al pubblico. Allora, noi siamo una piccola produzione di Milano, sì. E abbiamo fatto questo film Diari, che devo dire ha ricevuto delle bellissime accoglienze sia da parte della critica che dei festival internazionali. Però chiaramente, essendo appunto indipendenti, questi problemi distributivi a cui accennavi prima non li abbiamo superati, però abbiamo trovato dei canali, grazie a Atlantide Entertainment, che è una piccola casa di distribuzione, per cui riusciremo a far vedere il film un po' in giro per l'Italia, e questo insomma ci dà grande soddisfazione. Allora, il film è la conclusione di un percorso formativo, un laboratorio, un progetto di cui ci parlerai. Esattamente, nel momento in cui ormai 1 anno e mezzo fa iniziavo a fare questo film, sì, uno dei problemi principali che avevo era che sicuramente avrei avuto difficoltà a trovare degli attori adolescenti. Questo Diari è prevalentemente un film che parla di adolescenza, sì. E siccome appunto non siamo in America, dove ci sono attori professionisti di 6 anni, ma siamo in Italia, è dura trovarne di bravi, formati o adatti alla parte. Ragione per cui abbiamo realizzato questo lungo percorso di formazione, sì, che è una specie, quasi fosse una specie di casting lungo di 7-8 mesi, in cui abbiamo visto nell'area di Milano più o meno 500 ragazzi. E questi ragazzi, alcuni sono entrati a far parte di seminari di recitazione, e i migliori di questi, più adatti anche alla parte, più talentuosi, sono poi entrati a far parte del film come protagonisti. Così come invece altri ragazzi che non sono entrati a far parte del film come attori, ne sono entrati come assistenti magari del direttore della fotografia o come assistenti miei personali, per esempio. Il tuo approccio a questo mondo giovanile è stato volutamente differente rispetto ai luoghi comuni, alla cronaca, no? Sai, oggi come oggi fare un film sull'adolescenza è difficilissimo, perché è diventato un genere veramente, veramente abusato, con esiti alti, esiti meno alti, però sicuramente ormai è un genere. E quindi nel momento in cui fai un film ti poni sempre la questione: che film voglio fare? Però io voglio fare un film proprio su questo, che sia... che è un argomento che ormai è veramente sulla bocca di tutti, sia in televisione che chiaramente al cinema. E la mia risposta che mi davo a me stesso nel momento in cui cominciavo a scriverlo era che sicuramente l'esperienza che avevo avuto con i ragazzi, perché ormai avevo già fatto due cortometraggi a tematica adolescenziale, era molto diversa rispetto a quella che vedevo rappresentata generalmente, diciamo, dai media, e quindi mi piaceva darne un ritratto personalmente più intimo, che ne ritraesse di più quelli che sono i sogni, le aspettative, come anche i grandi entusiasmi o le grandi disperazioni, chiaramente, che ci sono. Il film è suddiviso in tre capitoli: in uno un ragazzo, poi una ragazza e poi un anziano. Esattamente. Sono tre storie che vanno apparentemente indipendenti, che poi in realtà vanno a confluire in un finale unico. Sì. La protagonista, tutte e tre le storie, diciamo, ruotano attorno al cardine del rapporto tra giovani e adulti, e soprattutto tra giovani e figura paterna, diciamo. Il primo film c'è la storia di questa ragazzina che rincontra il padre dopo 10 anni che non lo vede, e quindi con tutti i problemi che possono nascerne. Nel secondo episodio c'è la storia di questo ragazzo che è diviso tra una serie di problematiche sentimentali più specifiche della sua età e questo padre, padrone, che lo obbliga a una serie di obblighi a cui lui vuole sottrarsi. Diciamo che, tra parenti, dimenticavo di dire che questo ragazzo è di origine magrebina, di origine tunisina, e si chiama Ali. E nel terzo episodio tutti questi due personaggi poi si incontrano, questo anziano signore che è un personaggio che si chiama Michele Mancia, che invece è un romantico amatore del tango, tanghero. Senti, al di là dei festival dove hai portato Diari, che prospettive ci sono invece per la distribuzione, oltre all'uscita di domani? Intanto poi ti chiedo come, in quali città, in quante copie uscirete. Certo, attualmente noi siamo in giro per l'Italia con 5 copie. Sì. Quindi domani usciremo al LED di Roma e in contemporanea a Torino a Fratelli Marx. Dopodiché riusciremo a Napoli, Milano e piano Vicenza, diciamo. Soprattutto ci concentriamo nel nord, che è più una zona da noi facilmente raggiungibile, sono milanesi, però sicuramente dovremo piano piano calare fin giù in Sicilia e a Palermo anche. Con chiaramente una distribuzione che va a tappe. Siamo un film diciamo diverso da quelli prodotti che escono in 150 copie in tutta Italia in contemporanea. Noi dobbiamo gestirci in maniera diversa. Attilio, c'è un sito, avete un sito di riferimento legato al film? Certo, c'è un sito dove si possono controllare, dove si può vedere il trailer e visionare tutte quelle che sono poi le uscite che ci saranno da oggi in poi, che si chiama progettodiari.it. Bene, bene. Allora non mi resta che augurarti in bocca al lupo e a risentirci questa volta, alla prossima. Assolutamente, alla prossima. Grazie. Un abbraccio, ciao Attilio. Ciao, buona giornata. Attilio Azzola, regista di Diari, da domani anche a Roma. Come diceva lui, in 5 città italiane, da domani all'Eden qui a Roma. Passiamo a parlare di festivals. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza, ogni giovedì dalle 14 alle 15. E ben ritrovato a Giovanni Spagnoletti, ci sei caro? Eccolo! Oh. Buon pomeriggio. Grazie, anche a voi. Con te per parlare della 45esima mostra del Nuovo Cinema Pesaro Film Fest dal 21 al 29 giugno. Esatto, più che altro si parte, abbiamo una preapertura del festival il 21, ma le proiezioni vere e proprie cominciano, le iniziative del festival cominciano il 22. Mm-hmm. Questioni di piccoli risparmi, siamo in un'epoca difficile per la cultura. Eh sì. Allora, una delle più storiche rassegne italiane, come si è sviluppata questa edizione rispetto alle altre, gli elementi di continuità, quelli di innovazione? Beh, gli elementi di continuità sono sempre quelli di cercare delle cinematografie che siano piene di problemi, ma senza annoiare e che portino caratteri di novità stilistica. Questo è un po' tant'è vero che, voglio dire, tra l'altro daremo anche un premio a Marco Bellocchio sabato 28. Mm-hmm. Dato che lui ha cominciato con I pugni in tasca nel 65, noi abbiamo cominciato nello stesso anno ed è uno degli autori italiani che più mantiene viva questa tradizione, che è impegno da una parte e rivoluzione stilistica dall'altra. Sì. E quindi queste, diciamo così, noi siamo, quest'anno è una manifestazione particolarmente, diciamo così, calda, proprio perché al centro del programma c'è il cinema israeliano, che insomma, voglio dire, è un cinema che è la coscienza di una nazione, una situazione che noi conosciamo tutti. E quindi come tale è l'occasione di parlare di tanti problemi che ci toccano drammaticamente da vicino. Sì, sì. E contemporaneamente, voglio dire, insieme alla parte, diciamo così, israeliana, abbiamo anche cercato di presentare dei film che vedessero anche Israele da un punto di vista diverso. Concludiamo proprio il festival con l'ultimo film di Suleiman, che è stato presentato con successo al Festival di Cannes e che presentiamo in anteprima italiana, ma presentiamo anche un documentario molto bello di Simone Bitton, che era l'autrice del Muro, che aveva vinto a Pesaro nel 2004, con il suo nuovo film che appunto parla di nuovo di Israele, oppure con il film di una regista italiana come Barbara Cupisti, che analizza delle iniziative e delle esperienze in cui i pacifisti palestinesi e pacifisti israeliani si sono uniti in una lotta comune. Insomma, voglio dire, credo che l'edizione di quest'anno sia un'edizione particolarmente legata, più di altre, più dell'anno scorso sicuramente, che era la Germania, anche ad un contesto politico molto, molto forte. Ecco. Senti, a proposito di questa sezione legata al cinema israeliano, quali sono le tematiche presenti all'interno di queste pellicole che vi premeva, insomma, portare al festival? Beh, diciamo che il cinema israeliano, che tra l'altro, come sai, a partire dal 2004 comincia a essere anche un fenomeno interessante da un punto di vista distributivo, e anche in un paese come l'Italia, che rispetto ad altri paesi europei è sempre il fanalino di coda, no? Sì. Sono usciti anche in Italia Il Giardino di Limoni, Camminando sull'acqua, Yossi e Jäger, Walzer con Bashir, cioè tutti film che in qualche maniera, come dire, soprattutto Walzer con Bashir è un film che lega una riflessione autobiografica drammatica, quella del massacro di Sabra e Shatila, con invece un tipo di innovazione artistica molto forte. Oppure il film è distribuito da Dall'Anni Moretti, Meduse, insomma, voglio dire, il cinema italiano non è più un fenomeno, un'Araba Fenice, non è più, è un come nella letteratura, sta crescendo fortemente e sta diventando anche un po' lo specchio critico della società israeliana. Giovanni, gli ospiti di questa edizione? Per esempio, noi siamo molto contenti di presentare in piazza il film, l'anteprima del film di Felice Farina, La fisica sull'acqua, con Paola Cortellesi e Claudio Amendola. Quindi avremo, oltre alla, diciamo così, ai nostri consueti frequentatori, che sono i registi dei film in concorso. Tra l'altro segnalo un altro film italiano che ha avuto grande successo alla Kenzen, che è La Pivellina, che noi presentiamo in anteprima in Italia. Quindi abbiamo, come di consueto, abbiamo le nostre star, sono i registi dei film che accompagnano le loro opere a Pesaro, e poi, come nel caso di Felice Farina, Marco Bellocchio e altri attori italiani, insomma, sarà un'edizione particolarmente varia. Senti, a proposito della varietà di opere presenti, di che cifre stiamo parlando rispetto alle pellicole e da quanti e quali paesi provengono? Le cifre, dici, il complesso dei nel film complesso, della mostra? Sì. Allora, tra la retrospettiva italiana, che è dedicata a Alberto Lattuada, un regista molto, molto importante, che è anche parecchio dimenticato, che fa parte dell'evento speciale, a tutti i film che presentiamo, avremo più di un centinaio di pellicole concentrate in 7 giorni di proiezione. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, tra l'altro, appunto. Dicevo, l'Italia ha anche, come dire, un omaggio a un filmmaker che a noi sta particolarmente a cuore, che era uno dei filmmaker sperimentali degli anni 60, Paolo Gioli, che è diventato poi un fotografo molto importante, è uno dei pochi fotografi italiani che è presente in tutti i grandi musei del mondo, e che è stato un po' dimenticato come cineasta sperimentale, di cui presentiamo anche una sezione di completa con un terzo del suo lavoro completamente inedito. Devo dire che penso che questa è la mia 10ª edizione, credo che sia un'edizione a cui sono particolarmente legato, proprio perché si torna a parlare un po' molto di politica, molto di sperimentazione, e quindi contro, diciamo così, invece un cinema solo conformista o solo di intrattenimento. Quest'anno penso che sia un'edizione particolarmente riuscita, spero. Rispetto ai paesi che sono pochissimo o per nulla presenti nelle nostre sale, c'è qualche segnalazione che vuoi fare? Ma ci sono due film che sono due film messicani. Il Messico è una delle mie, non solo mie, ma insomma una delle passioni cinefile di molti direttori di manifestazioni internazionali. Il Messico, poi la Corea, poi l'Indonesia, insomma si spazia un po'. Abbiamo l'ultimo film di Ahmad, di cui abbiamo presentato l'anno scorso una retrospettiva completa. Insomma, voglio dire, si spazia un po' per tutti gli angoli del mondo alla ricerca di quello che per noi è fondamentale, che è appunto un cinema legato, come dire, fortemente a un impegno stilistico e contenutistico. Bene, Giovanni, allora il programma è sul sito del festival, e vuoi ricordarlo? www.pesarofilmfest.it, a partire dal 22, tutto il 29, tutta domenica 29 compresa, con la premiazione in piazza, tra cui quella di Amnesty International, che darà un riconoscimento al film migliore presentato al nostro festival. Bene, allora un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie tantissimo, arrivederci. Ciao Federico. Giovanni. Ciao, ciao. Giovanni Spagnoletti, direttore della 45esima mostra del Nuovo Cinema Pesaro Film Fest dal 21 al 29 giugno. Proseguiamo. Anche ad Angelo Signorelli, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Come va? Bene, voi? Bene, bene. Allora, noi ci sentiamo diverse volte, sia per il Bergamo Film Meeting che per Cinelatino, che quest'anno è alla seconda edizione. Esatto. Allora, dal 17 al 20 giugno, quindi in pieno svolgimento, raccontaci un po'. Allora, sono 9 film, sì. Proprio per dare dei dati nudi e crudi, tra cui 3 film della Lucrezia Martella, a cui abbiamo dedicato una personale, e gli altri sono film di recente produzione della stagione appena passata. E è un panorama un po' sul cinema latinoamericano. Ci sono appunto film argentini, 2 film messicani, un film peruviano. Insomma, si è cercato di prendere un po' il meglio di una produzione. Alcuni di questi film hanno vinto. Angelo, ti sento che vai e vieni. Mi senti? Adesso di nuovo sì. Ecco, no, dicevo che ci sono dei film che hanno vinto anche riconoscimenti importanti a festival importanti, sì. Come Canto di Paloma, che tra l'altro è uscito anche in distribuzione. Bello, bello il Canto di Paloma. Che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino di, sì, quest'anno. Parco e Via, che ha vinto il Pardo d'Oro e il premio Free Placing all'edizione di Locarno dello scorso anno. E Lecca Oi, che ha vinto a Berlino 2009, ha vinto il premio Fibresci. Quindi ci sono anche dei film che all'estero hanno avuto dei riconoscimenti importanti, che non sono peraltro mai stati distribuiti in Italia. Sì. Allora, 9 titoli che insomma fanno un po' un quadro di una realtà. Come trovi questa realtà? Che cosa sta producendo il Ma il devo cinema? Dire che da un punto di vista così, della struttura narrativa, della scrittura, sono film, tutti i film ormai, almeno quelli che abbiamo scelto, hanno delle caratteristiche così anche di qualità molto molto buone. Cioè, hanno cominciato a raccontare le storie e a raccontarle nella maniera anche migliore possibile. Sì. È una cinematografia, perché poi sono più cinematografie, che stanno crescendo, e soprattutto stanno crescendo anche in parallelo alle trasformazioni sociali che ci sono state in questi paesi negli ultimi anni. Teniamo conto che la maggior parte dei paesi dell'America Latina erano rette da dittature militari o pseudomilitari. Ecco, sono tutti paesi che bene o male stanno facendo il loro percorso verso un sistema democratico compiuto, e il cinema è testimone di queste trasformazioni e è testimone anche appunto dei cambiamenti sociali, antropologici e che sono economici che sono in atto insomma in questo momento. Quindi è uno specchio dei tempi di grande interesse. Mm-hmm. Oh, e comunque continuano e permangono le difficoltà a vederli nei nostri cinema. Sì, ci c'è qualche uscita isolata, però se pensi che tipo non so il film Leonera di Trapero, che è uno delle persone che tra l'altro è a Bergamo e ospita Bergamo e stasera presenterà il suo film, ecco, questo è un film che non è ancora stato acquistato per l'Italia, ma ce ne sono anche Cordero de Dios, che ripetiamo che aveva vinto il Bergamo Film Meeting di quest'anno, non ha una distribuzione italiana. Mm-hmm. So che per esempio un film come Lecta Oi dovrebbe uscire, però non è ancora stato distribuito. Mm-hmm. E quindi non è che poi arrivi tanto nelle nostre sale, nei nostri mercati. Mm-hmm. Sono film che fanno comunque fatica ad essere acquisiti, ma questo non è solo il caso delle cinematografie latinoamericane. Angelo, avete cominciato ieri già un primo ma ieri una sera prima impressione rispetto... ed è stata una serata bellissima. Abbiamo iniziato col film La donna senza testa, La moglie sin cabeza, che è l'ultimo film della Martel che era stato presentato nel concorso di Cannes lo scorso anno, e abbiamo avuto una sala addirittura strapiena con gli altri gradini. Quindi l'inizio è stato molto molto bello e molto promettente, perché bene. L'inizio è un po' quello che ti dà la spinta, no? Eh sì. Quindi fa promettere bene, speriamo, perché poi i film sono tutti di buon livello, insomma speriamo che anche i prossimi giorni possano essere frequentati, perché pubblico almeno può vedere anche dei film un po' diversi dal solito, insomma su realtà diverse dal solito. Questa è già una funzione utile, insomma, per aprire anche questa possibilità di conoscimento. Bene Angelo, allora speriamo bene, un abbraccio e alla risentirci presto. Anche voi, che siete sempre molto molto gentili a darci spazio, e un invito alla gente di venire a vedere. Comunque trovano sul sito www.bergamofilmmeeting.io, www.lavottanta.it, ci sono tutte le informazioni sulla rassegna. Benissimo, alla prossima. Grazie, ciao. ciao. Angelo Signorelli, curatore della seconda edizione di Cine Latino a Bergamo dal 17 al 20 giugno, quindi in pieno svolgimento. Siamo in attesa di un collegamento per parlare di Fanta Festival qui a Roma. Questa settimana interlocutori storici, definiamoli così. Quest'oggi adesso è la volta di Adriano Pintaldi. Pronto, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi, grazie. Ben ritrovato. Anche voi. Allora, uno dei direttori, dei due direttori del 29esimo Fanta Festival a Roma dal 22 al 28 giugno, come va quest'anno? Cosa c'è? Cosa succederà? Bene, bene, bolle molte, molto fuoco. No, abbiamo un sacco di novità e siamo soprattutto contenti insieme ad Alberto Ravaglioli, che è con me l'altro direttore del Fanta Festival da sempre. Allora, siamo molto lieti di essere tornati a Roma, che è la nostra sede naturale. Roma è la città in cui il Fanta Festival è nato 29 anni fa, è cresciuto, è diventato grande, adulto, maturo, e poi quindi ritorna a Roma quest'anno con una bella edizione, con una serie di novità, di ospiti, di omaggi prestigiosi. Quindi siamo molto lieti di iniziare la settimana prossima la nostra kermesse all'insegna del famoso e famigerato pipistrello che vola su Roma con le sue ali nere. Allora Adriano, facciamo una breve panoramica, ci dici cosa avverrà, cosa vedremo? Sì, intanto voglio dire velocemente dove accade tutto ciò. Dunque, certo. Fanta Festival quest'anno si articola attraverso il Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale, che come sapete è un museo e che ha comunque delle sale di proiezione molto, molto moderne e molto attrezzate. Quindi i film, diciamo il grosso dei film in concorso nelle varie sezioni che comprendono il festival di quest'anno si svolgerà all'interno del Palazzo delle Esposizioni. E faremo il 24, una serie, il 24 giugno, quindi mercoledì prossimo, una grande serata di premiazione, serata d'onore tra virgolette del 29esimo Fanta Festival al Cinema Embassy, per ospitare tutti i nostri, diciamo, pezzi da 90, che ti dirò fra poco, insomma, nel corso della nostra chiacchierata. Sì. E poi a questo si aggiunge, con un accordo che abbiamo fatto con il Centro Sperimentale Cineteca Nazionale, che ringrazio in questo momento, una retrospettiva e un omaggio speciale al maestro Carlo Rambaldi, che si svolgerà al Cinema Trevi il 26, 27 e 28 giugno, quindi gli ultimi tre giorni del festival in contemporanea a noi al Palazzo, al Cinema Trevi si svolgerà questa, diciamo, retrospettiva un po' con dei film particolari, anche meno visti, del maestro Carlo Rambaldi. Ecco, questi sono i luoghi del festival. Sì, sì, sì, sì. Venendo ai contenuti, ovviamente il festival, come tutti gli anni, ha le sue sezioni, quella competitiva, che è una sezione che peraltro è diventata una sezione, diciamo, di punta del Fanta Festival, e non solo, perché noi siamo come festival dedicato alla fantascienza e al fantastico, abbiamo creato la Federazione Europea dei Festival di Genere, proprio del cinema fantastico in Europa, insieme ai nostri, diciamo, amici e festival omologhi di tutta Europa, che sono tanti, sono Siges, sono Bruxelles, sono Oporto in Portogallo, Amsterdam in Olanda, Finlandia, eccetera eccetera. Quindi abbiamo, diciamo, tutta questa nostra federazione importante che ha creato il premio Méliès europeo. Che cos'è? È un premio che viene assegnato da ciascun festival singolarmente al miglior film tra quelli messi in concorso europei, quindi la nazionalità deve essere europea, ovviamente italiana, francese, spagnola, come ci pare, però deve essere, diciamo, di natura europea, e si assegna un Méliès d'argento. Tutti i Méliès d'argento di tutti i festival che ovviamente compongono la federazione, alla fine dell'anno ci sarà una nuova premiazione con una nuova giuria e determinerà qual è il film migliore europeo di tutto l'anno, quindi riceverà ovviamente il Méliès d'oro. Bene. E questa è una bella iniziativa, perché è una specie di Oscar al cinema fantastico che non esisteva, è stato creato da noi diversi anni fa, abbiamo fatto questo sforzo tutti insieme e anche con gli aiuti, con un po' di sostegno della comunità europea, siamo riusciti a creare questa sorta di concorso europeo, che però valorizza appunto il prodotto europeo rispetto a quello americano, perché ovviamente poi noi e tutti gli altri come Fanta Festival poi presentiamo anche dei film americani, ovviamente, perché sono un po', diciamo lo zoccolo duro del cinema fantastico e fantasy. Sì. Quindi questo, allora, se vuoi che velocemente ti posso dire quali sono i film che partecipano al Méliès 2009, che sono dei film ovviamente europei e italiani. Mm-hmm. Cioè Houdini, l'ultimo mago, un film inglese, del Gran Bretagna. Vision, che è un film italiano. Chiamami Salomè, sempre italiano, di Claudio Sestieri. Terminator Salvation, che è un film tedesco. Monaco, I segreti dell'ultima luna, che è un film francese-ungherese. Sinner, che è una novità assoluta, quindi è un'anteprima europea ed è anche partecipante al Méliès, un film di Alessandro Perrella con il grande Robert Englund. Poi c'è un'altra opera prima, Butterfly Zone di Luciano Capponi, Spiriti come noi e Colors from the Dark, che è un titolo inglese ma il regista si chiama Zuccon ma è un italiano. Quindi diciamo, di questi film che parteciperanno, uno sarà scelto come Méliès d'argento 2009 e sarà decretata questa dalla giuria che ovviamente partecipa al festival e quindi deciderà poi qual è il film migliore la sera del 24 giugno al Cinema Embassy, dove ci sarà questa serata d'onore con tutti gli ospiti. Senti, oltre a questi titoli euro-statunitensi c'è anche nel programma anche film provenienti da altri continenti? Bah, se noi abbiamo un film, ovviamente presentiamo questo film di Howard McKean che si chiama Outlander, l'ultimo vichingo, che è un film ambientato in Norvegia nell'anno 700, un film fantastico, molto importante, molto spettacolare. Poi abbiamo un film americano che è 12 Rounds, 12 Round di Rennie Harlin, è un film altrettanto spettacolare sul genere di grandi film di fantascienza e diciamo di americano ovviamente. Poi c'è Moonaker, I segreti dell'ultima luna, che è un film con una giovane protagonista alle prese con una specie di novella Alice, alle prese con un paese invaso da una pericolosa maledizione. Quindi ci sono, diciamo, questi film che sono delle novità assolute. Sì. Poi accanto a questi abbiamo gli omaggi ai nostri ospiti, che sono gli ospiti d'onore, che vorrei dire, perché siamo particolarmente lieti quest'anno di fare questo, diciamo, di avere questa rosa di personaggi importanti che vanno da appunto Murray Abraham, il mitico Salieri di Amadeus, vincitore dell'Oscar di quell'anno, al quale dedichiamo anche un omaggio speciale. Sarà premiato la sera del 24 e ci sono alcuni film che lui ha interpretato che saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni. Poi c'è un omaggio a Dante Ferretti, grande scenografo, premio Oscar due volte con dei film, di Scorsese, il film del Barbiere di Fleet Street, quindi sono due film straordinari di genere. Poi c'è un omaggio al grande Carlo Rambaldi, che ti dicevo, al quale è dedicata questa grande retrospettiva al Cinema Trevi, e che ovviamente è un nostro, come dire, affezionato, cioè Carlo è una specie di papà del fantafestival, ormai è venuto, diciamo, noi siamo cresciuti con lui è sempre quel papà di E.T., famoso papà di E.T., che rimane nella storia del cinema, tre volte Oscar con Alien, E.T. e King Kong, quindi insomma è un grande omaggio. A questo si aggiunge un omaggio a Peppino Rotunno, che ovviamente è uno straordinario e spettacolare direttore della fotografia di Fellini e di tutti i più grandi film anche internazionali girati in tutta la sua vita, la sua lunga carriera, e finisce con Stelvio Cipriani, che è un grande musicista, un grande, diciamo, creatore di colonne sonore, ha lavorato per il cinema fantastico, in particolare c'è un accento sulle sue esperienze sia con Freda che Bava, cioè Bava Mario, cioè il grande Mario Bava e il grande Riccardo Freda, sono, diciamo, due autori con cui Cipriani ha lavorato, e quindi ci sembrava giusto fare un omaggio a un, diciamo, un personaggio del suo livello. Sì. Ecco, questo è un po', diciamo, grosso modo il corpo del festival di quest'anno, che è appunto articolato tra Palazzo Esposizioni, Cinema Trevi ed Embassy, dove poi facciamo questa serata, darà modo al pubblico di partecipare alle varie iniziative, ai vari incontri, anche con gli ospiti che ti ho detto, che saranno disponibili per incontrare il pubblico, fare delle tavole rotonde, fare degli incontri proprio diretti con il pubblico. Per quanto riguarda il programma, Adriano, c'è un sito internet, immagino. Assolutamente, sì. Si chiama www.fanta-festival.it. Semplicissimo. E siamo assolutamente sul sito, c'è il programma, ci sono i film, i titoli, le sezioni, tutto quello che riguarda il fantafestival, il nostro anche spot, che ovviamente quest'anno è particolarmente divertente perché è stato creato un po' sul fatto di questo ritorno a Roma, quindi c'è questa specie di catastrofe che si abbatte su Roma, ovviamente presa in modo ironico e divertito e divertente, perché ovviamente la catastrofe è semplicemente portare dei film e far divertire la gente. E quindi all'interno di questo spot c'è una serie di eroi, di personaggi storici del festival, non del fantafestival ma del cinema fantastico in generale, che vediamo che vediamo in questo minuto e 10 secondi. Mm-hmm. Ho dimenticato di dire, anzi mi sembra importante, perché l'evento che apre il festival è quello più, diciamo, caratterizzante, ma anche, se vuoi, più spettacolare, il giorno 23 al Palazzo delle Esposizioni, con un accordo che ho fatto con l'Academy Awards di Los Angeles, presentiamo un restauro straordinario del film Il ladro di Baghdad del 1924 di Raoul Walsh, con il famoso e fantastico Douglas Fairbank. È un film assolutamente fantastico, di una bellezza sconvolgente, di 2 ore e passa, ricolorato a mano, restaurato completamente, una copia restaurata a 35 mm sarà presentata in edizione, diciamo appunto restaurata, eccetera, il giorno 23. In questa prima poi europea, perché insomma, il film in Europa non, non è stato mai presentato in nessun festival, l'hanno presentato a Los Angeles in occasione dell'omaggio al grande Douglas Fairbank, hanno fatto in febbraio-marzo scorso in America. Adriano, in bocca al lupo e ti saluto. Grazie di tutto, grazie a voi, altrettanto buona trasmissione e vi aspettiamo al Fanta Festival. Bene. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Adriano Pintaldi, co-direttore della 29esima edizione del Fanta Festival a Roma, qui a Roma dal 22 al 28 giugno. Giorgio Ginori, direttore artistico dell'Isola del Cinema, ci sei? Eccoci. Eccoci qua, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Onda Rossa. Come va? Stiamo, come dire, se Dio vuole stasera si parte, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno perché, come dire, la crisi mondiale ha toccato un po' tutti i campi, compreso quello degli eventi, perché abbiamo, come dire, abbiamo scelto, credo di poter dire un po' coraggiosamente, di fare di più nonostante queste difficoltà, perché poi noi, come dire, con questo progetto guai a stare fermi, abbiamo voluto fare un cartellone ancora più ricco di eventi, e anche nella veste dell'isola, quando scenderete, troverete delle novità che cercano di segnalare così la veste dell'isola dal punto di vista della scenografia, con una serie di novità. Una si vede anche dai ponti, se passate intorno all'isola. Allora, Tiberina. Tu sei già sul campo, quindi stiamo parlando chiaramente dell'isola Tiberina. Allora, intanto dici anche le date e poi facciamo una panoramica un po' del cartellone. Sì. Allora, si parte stasera. Sì. Stasera si parte e abbiamo scelto di partire con una settimana di cinema italiano, in cui i film migliori vengono segnalati in questa prima settimana, però personalizzandoli. Stasera, che so, c'è Giovanni Veronesi con The Italians, poi domani c'è Fort Apache di Marco Risi, poi c'è Piccioni con Giulia Non esce la sera, poi c'è Pappi Corsicato con Il seme della discordia, Salvatores con Come Dio comanda. E quindi questi sono autori che saranno qui sull'isola presenti, perché l'idea, insomma, la formula dell'isola del cinema è che quando propongono dei film che sono già passati nelle sale, vuole personalizzarli con questo incontro con gli autori, in cui il pubblico incontra, sì, gli autori, e si crea intorno a questo film così anche il piacere dell'incontro con chi ha fatto il film. E poi subito dopo parte anche la parte internazionale. Sì. Volevo segnalare, per quanto riguarda Cantiere Italia, Cantiere Italia è la sezione dove si segnalano autori già consacrati, già famosi del cinema italiano, e poi c'è una parte a cui teniamo moltissimo altrettanto, che è il nuovo cinema italiano. Sono una ventina di autori che ogni anno segnaliamo, che magari hanno avuto meno fortuna nelle sale, ma su cui noi puntiamo perché segnalano questi fermenti, questi talenti che hanno bisogno di visibilità, e noi siamo ben felici di dare questa visibilità. E tra l'altro abbiamo rinforzato, proprio per aiutare questi momenti del nuovo cinema italiano, abbiamo quest'anno rinforzato la seconda sala. Voi sapete che sono due sale, una è la grande arena di cinema, tra l'altro, dicevo, dal ponte, quando passate, se passate dal ponte rotto lì, Ponte Emiliano, vedrete una enorme gigantografia di 20 metri per 10 che segnala il cinquantenario della Dolce Vita e che diventa il portale del cinema, e questa è la sala Fellini, mentre l'altra sala l'abbiamo chiamata sala Sergio Leone, e lì appunto passeranno tanti tanti giovani autori che noi stimiamo e che vogliamo così in qualche modo sostenere. Bene, bene. Allora, quindi ci sono in previsione proiezioni accompagnate dagli autori, quindi ci sarà modo anche di incontrarli, di parlare con loro. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Sono lì, poi rimangono lì in sala pronti a fare, se si vuole, un dibattito o comunque anche un incontro così ravvicinato. La stessa cosa accadrà per la sezione internazionale. Voi sapete che abbiamo poi questo settore che si chiama Isola Mondo. Quest'anno, come ogni anno, arriveranno una decina di paesi, ve ne segnalo alcuni, vi segnalo il Messico, vi segnalo l'Argentina, vi segnalo l'Australia, vi segnalo Israele, vi segnalo il Giappone. Tra l'altro questi paesi porteranno degli inediti, e ad esempio per inediti, cioè film mai arrivati in Italia, perché noi nell'Isola Mondo vogliamo segnalare qualcosa che sta accadendo in quel paese in questo momento. Quindi sì, arriveranno questi inediti, sono 10 inediti da ogni parte del mondo, e vi segnalo un'anteprima mondiale. Fammelo dire, perché come così no, mi dà anche una piccola emozione, e cioè il Giappone, per celebrare il cinquantenario della Fujifilm, ha fatto un film che si chiama Amalfi, e hanno scelto di farlo debuttare in anteprima mondiale qui all'isola, prima ancora che esca in Giappone. Quindi questo ci dà così una grande gioia, perché almeno per noi dell'Isola del Cinema è la prima anteprima mondiale che ci capita, e sì, quindi ci tenevo a segnalarla. Senti Giorgio, rispetto ai titoli in programma, di quante pellicole stiamo parlando? Stiamo parlando di un 70 giorni di programmazione con due proiezioni a serata sia su schermo grande che su schermo piccolo, per modo di dire, perché comunque è sempre uno schermo di 8 metri per 6 e poi l'altro sì è molto è più grande, più cinemascope, però sono comunque belle proiezioni, ben curate con le migliori tecnologie che ci sono sul mercato. E se mi permetti, volevo dire che nella formula dell'Isola del Cinema, accanto al cinema, che è un po' come dire la nostra malattia, e poi insomma siamo all'Isola del Cinema, noi abbiamo dato spazio anche ad altre arti, ad altri linguaggi che tra l'altro interagiscono da sempre con il cinema. Sappiamo quanto un libro poi diventa un film, quanto la pittura può aver ispirato appunto alcune immagini a qualche regista. Quindi accanto al cinema c'è anche il caffè letterario, dove ci sono tanti autori che verranno lì a presentare i loro libri. C'è l'Isola dei Poeti, tra l'altro lì c'è una curiosità: nella storia della poesia mondiale ci sono pochissime poesie, una o due ne abbiamo trovato, dedicata all'isola Tiberina, e allora abbiamo fatto anche un evento in cui dei poeti scriveranno quest'anno delle poesie dedicate all'isola Tiberina. Bene. Quindi cinema, ma anche letteratura, ma anche poesia, ma anche colonne sonore di cinema, che vanno così a integrare un po' queste fonti di ispirazione di cui il cinema si nutre. Bene, il programma dove, su quale sito? Allora, se voi andate cortesemente su www.isoladelcinema.com c'è il nostro appunto sito web con il programma, con una richiesta che io anche dalle vostre onde voglio lanciare, di così darci i vostri consigli, di comunicarci le vostre emozioni, le vostre richieste, perché noi, e tra l'altro questo lo voglio sottolineare, da parecchi anni abbiamo scelto di puntare sull'Isola Tiberina come una piazza speciale in più di Roma, dove la gente scende senza pagare nessun biglietto d'ingresso. Oh, come si va a Piazza Navona, si va a Piazza Santa Maria Trastevere, come si va a Piazza Campo dei Fiori. Per cui questa piazza mi piace pensare che diventa un luogo dove i romani scendono molto volentieri, si guarderanno intorno e ci daranno i loro consigli, che siano sia come dire di quello che è lo spazio, ma anche consigli su quello che è la programmazione, certo, su quelli certo. Che sono gli eventi. Insomma, i romani chiamavano l'isola Tiberina l'isola di Roma, insula Rome. Ecco, noi la nostra, come dire, la nostra ambizione, chiamiamola così, è di far diventare sempre più l'isola Tiberina l'isola di Roma e dei romani. Bene, allora ti ringrazio e in bocca al lupo e a presto. Crepi al lupo, al lupo, vi aspettiamo. Ciao Giorgio, sì, ciao. Grazie di cuore, arrivederci. Ciao ciao. Giorgio Ginori, direttore artistico dell'Isola del Cinema, come sentivate, a ingresso gratuito all'Isola Tiberina qui a Roma per 70 giorni. Grazie. Come stai? Bene, bene. Sto tornando a lavorare dopo una piccola parentesi marittima di mezza giornata, cioè di 3 ore comunque. Allora, per no, ci siamo sentiti la scorsa settimana, non mi ricordo. Sì. No, non mi ricordo manco. Vabbè, no, comunque, no. Rispetto alle uscite di questa settimana, e poi se c'è qualche altro titolo già in programmazione, dovresti spegnere la radio. Ah sì, scusami. Ecco, ok, perfetto. Okay. rispetto ai film già in programmazione, se c'è qualcosa che volevi segnalare. Che io non mi ricordo più cosa esce, perdonami. Allora, Amore e altri crimini, Borderland, sì. Coraline e la porta magica, Diari, di cui abbiamo parlato con il regista, sì, Attilio Azzola, Look Both Ways, Il mondo di Horton, Una notte da leoni, Il prossimo tuo, La ragazza del mio migliore amico, Il solitario e Wild Child. Ma tutta sta roba, esatto, tutto venerdì, esatto, buttano tutto nel calderone. Bene, immagino che siano due o tre copie per ogni film. Vabbè, comunque. Allora, parliamo di un film, ne ho visti alcuni, naturalmente, sì. Comunque, Il prossimo tuo, che è un film che aveva partecipato al Festival di Roma, se all'ultima non sbaglio. Edizione, sì, alla, esatto, nella sezione, quindi, extra. Ci terrei a parlarne, non perché mi sia piaciuto particolarmente, quanto perché è di una regista donna, quindi... è quasi tutto al femminile, femminile se non sbaglio. Femminile, sì, infatti... È una storia interessante, anzi sono varie storie che si intrecciano, no? E anche luoghi che si incontrano, sì. Perché è ambientato, se non vado male, ricordando, in parte a Roma, in parte a Parigi, in parte in Finlandia. In Finlandia, sì. E infatti Annelita Ciccone, che è la regista, è mezza italiana e mezza finlandese. Mm-hmm. E, il film appunto ha comunque preso di essere molto elaborato, articolato, stratificato, ecco, tutti gli aggettivi che si usano abbastanza nella critica, però in questo caso vogliono assolutamente significare quello che ho detto, che non implicano una ottima riuscita comunque del lavoro, però c'è un grande impegno dietro e secondo me vale la pena rilevarlo. Okay. Per quanto riguarda Una notte da leoni, mamma mia. Mamma mia, no, il fatto è questo, che è un film di cui è difficile distinguere fino a che punto noi andremo avanti con la, per inerzia, a ridere su tutto, per cui un film anche divertente, una commedia veramente divertente, costruita su battute a tavolino, no? Nella Mecca di Hollywood, per funzionare, sì, fanno ridere, tu ti perdi in queste risate, così, però dopodiché... Ma il film, ecco, no, il film è una storia piuttosto banalotta di tre uomini, e quattro uomini che partono per una notte, tra virgolette, da leoni. In realtà il titolo originale era The Hangover, che ha molto più senso che non in italiano. Hangover in inglese è la descrizione dello stato completamente da rincoglioniti, scusate il termine, che si ha dopo che si è bevuto, no? Mm-hmm. Per cui un'ubriacatura ti porta al hangover, ecco. E come si dice? Quando finisci la sbornia, ecco. Però in questo caso non è un vero hangover da alcol, ma questi tizi a Las Vegas, dove vanno a passare una notte pre-addio al celibato, vengono drogati, si dimenticano quello che fanno durante questa notte da leoni, da conseguenza, e tutto il film si gioca su cercare di andare alla ricognizione di quello che è successo, che trovano delle conseguenze. Una cosa carina, simpatica del film è il cameo di Mike Tyson nella parte di se stesso, quindi anche un'operazione piuttosto, no, ambiziosa, un film che è di una major, quindi comunque ha tutta una serie di elementi, però io lo trovo piuttosto banalotto ed è il primo in classifica negli Stati Uniti, e questo non significa che gli Stati Uniti non sono in grado di apprezzare il buon cinema, anzi, perché il 90% del buon cinema viene da lì, è proprio che a tavolino si riescono a fare dei prodotti che funzionano, insomma, stiamo attenti, ecco. Poi l'altra cosa che hai nominato, sì, è... ci sono almeno un paio di titoli che secondo me vanno ricordati, vanno menzionati, sì, poi non, c'è... non so se tu Diario non l'ho visto, sì, vale la pena, vale la pena. E comunque è già uscito a Milano tanto tempo fa, era è una cosa uscita un po' strana, sì. Poi ho visto aiutami un pochino, hai detto un titolo all'inizio, Amore e altri crimini, ecco, Amore e altri crimini a Belgrado, sì, un film serbo che ha partecipato al dov'è che stava quel film? A Panorama a Berlino. Sì, io a Berlino non lo vidi. È vero. Devo dire, un'opera prima con tutti i difetti dell'opera prima, di raccordo tra le parti, anche un po' troppo date per scontate alcune zone del film, però è bello perché c'è un bel sottotesto politico, bello perché c'è una storia che non finisce banalmente. Quindi e si muove insomma in un ambiente malavita, prostituzione, questo diciamolo per chi ci ascolta, insomma. Sì, sì, sì, ma non è solo quello, certo. Perché è un micromondo, è un sottotesto di guerra ancora, sì, perché sì, siamo in ancora in una fase di guerra, no? Sì. Però quella malavita che si vede è una malavita proprio micro, cioè banalissima, no? Puoi uccidere il gatto, fare queste cose, cioè, per carità, tutto rispetto, però, capito, non stiamo parlando di Gomorra, sì, stiamo parlando di un altro contesto. Sì. Ecco, è la storia privata che è interessante, che si muove in questo ambiente. Sì. È la storia di una donna, sostanzialmente, delle sue scelte, alla luce di tutta una serie di legami che lei ha. Sì. Io non voglio raccontare però la trama, perché è bello vederla, ecco, diamo una mano. Io volevo assolutamente vedere il film australiano, della regista australiana, sì, che sì, è bello, vero? Sì, sì, secondo me forse è l'uscita migliore di questo fine settimana. È un film, stiamo parlando di Look Both Ways, distribuito sì, dalla Fandango. Esatto, film sulla morte molto... ha più episodi che si incrociano, insomma, sono più storie parallele, sì, vincitore sì. di vari premi internazionali, sì. Io quel film lo volevo vedere, sono stata incastrata letteralmente, non ho potuto vederlo, ma era un film che avevo segnato, quindi lo... E poi consiglio anche Horten, Il mondo di Horten, come... Il mondo di Horten, che è un film danese, se non vado errando, aiutami. Non lo so, non l'ho neanche potuto vedere. Comunque è un mondo esilarante questo, è un mondo esilarante, io l'ho visto un po' di tempo fa, sì, in un festival, che sai, escono sempre così con tanto ritardo. Consiglio anche quello, una piccola distribuzione che sempre sta attenta ai propri acquisti, e che l'Archibald, ex Lady Film, insomma. Insomma, bisogna aiutare questo cinema assolutamente indipendente, invisibile, senza altri canali. E poi non so se Filth and Wisdom esce adesso, è già uscito il film di Madonna. Madonna è uscita la scorsa settimana. Ecco, io non avevo parlato, a me era piaciuto. Ah, ok. Io l'avevo trovato un film molto sgangherato, ma molto con humor un po' nero, molto britannico, perché Madonna comunque vive in Gran Bretagna, ha assimilato bene, ha mescolato le sue culture pop americane un po', diciamo, neogotiche degli anni Ottanta, per rimettersi in questa cultura britannica nera, umoristica, e ha preso in prestito quella pop star balcanica completamente folle in un film che secondo me è carino, è da vedere, non è da snobbare solo perché l'ha fatto Madonna, anzi. E questo film fu presentato proprio a Berlino, non quest'anno ma l'anno scorso, quindi immaginiamo, cioè, questo per riflettere sui ritardi che abbiamo sulle uscite, sì, perché è veramente roba piuttosto vecchia che sta venendo fuori. Bene. E poi io sono ancora, devo recuperare alcuni film che sono usciti grossi, cioè tipo Terminator, che sicuramente è un bel film, perché sì, perché penso che sia ancora una riflessione sulla crisi, no? La cupezza della fantascienza americana di oggi. Ma insomma, ci hanno parlato la scorsa settimana in maniera del tutto negativa. Ah sì? Sì, sì. Io ho letto delle critiche positive, però vedi, non avendo visto il film non Come posso... al solito dipende dai punti di vista, insomma. Comunque Pier Carlo ce ne aveva parlato molto male. Chi è Carlo? Pier Carlo. Io continuo a chiederti chi è Pier Carlo. Lo so. Bello questo. Vabbè, prima o poi vi presenterò, così capirai che lo conosci, insomma. E lui, se mi sente, fa pure una figuraccia. Comunque, non mi saluterà più. Vabbè, insomma, io volevo fare questo un saluto perché io parto lunedì. Ah, beh, è vero. Me ne vado negli Stati Uniti per un mesetto. Te ne andavi quindi... da questa Roma, insomma. Sì, ma soprattutto da quest'Italia. Da quest'Italia. In questo momento è meglio andarsene. Uh-huh. E stare via un po', insomma. Sta via un mesetto, sì. Per cui credo che se non... Io credo che tu a luglio comunque... A metà luglio continuerai a fare la traduzione, no? Beh sì, se non se 20... va tutto bene, certo, perché no? Io tipo il 20 luglio sarò di ritorno e quindi potremo sentirci ancora. Va bene. Magari potrei fare una visita, co-condurre come ai vecchi tempi. Ah, che bello! Che bello. Va bene, allora divertiti e ci si sente. Va bene, un abbraccio e ancora buon compleanno a te. Grazie. Ciao Anna. E siamo in chiusura, l'appuntamento quindi è per giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 con Visionari per parlare di cinema sugli 87-900 e modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa dal 1977 senza padrini politici, senza padroni economici. Tutte le informazioni sulla trasmissione potete trovarli sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Buon proseguimento.